later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli l'aria è salubre come a Seveso nel 76, Kappa e Drago si confrontano con la moda dell'eticità. Hi folks, per uscire dallo sbattimento non c'è niente di meglio che piantare un albero. Incredible piantare un albero! Sapete che piantare un albero equivale a prolungare la vita del pianeta, o perlomeno quella degli alberi? Sapete che piantando un albero riparate tutti i disastri che mettete in piedi vivendo alla vostra maniera di occidentali, viziati e nevrotici? Incredible occidentali nevrotici. It is later than you think. Fondi etici, energia etica, aziende etiche. Va di moda l'etico, Drago. Etica è una nuova parola. Etica. Se sarà però qui la fabbrica di polli, etica la vedo lontana. Sono ambiti diversi. Sì. La fabbrica di polli non è etica. Okay. Ma cerca di trovare motivazioni etiche per i suoi prodotti. E sai perché? Per vendere di più. Ma quali motivazioni etiche trovi a vendere cosce di pollo? Vabbè, cose come... I nostri polli possono andare a cresta alta. Che vogliono dire, i nostri polli sono nutriti con mangime naturale, vivono in ambienti confortevoli, ricevono carezze e attenzione dagli allevatori. Quelli del marketing... Ops, rettifico. Quelli del marketing! Non parlano d'altro alle riunioni strategiche. Etica. Etica. Etica. Etica, certo Drago, etica. Etica. L'etica tira. Tira. Se fai una cosa qualsiasi, anche una cosca mafiosa, ma riesci a darle una motivazione etica, sei sicuro di andare bene. Ma è tutta una finta però. Sì, certo, però non puoi dirlo. Ti faccio un esempio. Uno crea, diciamo, un polo chimico in mezzo alla campagna toscana, e poi per riparare il danno ecologico cosa fa? Si impegna a piantare migliaia di alberi. Ecco un modo furbetto per fare i soldi in modo etico. Ma io mi chiedo, cosa c'è? Un ufficio chiuso in una teca a Zurigo dove hanno delle tabelle chiuse in una teca sempre a Zurigo, perché le tabelle sono nell'ufficio che è a Zurigo, e sulle tabelle c'è la conversione in alberi dei cancri alla pelle degli abitanti della zona in cui hanno fatto il polo chimico? Funziona così? Credo di sì. Signora, suo marito è morto a causa della mia fabbrica, ma sappia che 30 nuovi cipressi sorgeranno in una parte del mondo in cui lei non metterà mai piede. È contenta? I want you, baby, you have bird flu. I want you, don't you have a bird flu? Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo e le propongo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi e mi dice non è aria. Guai che se mi tocchi che magari c'hai la diarrea. I want you. Giovanni Polli, amanti dell'effimero, non è più permesso un po' di sesso libero. I want you, baby you have bird flu. I want you, but don't you have a bird flu. La fabbrica di polli. A me, quelli che mi parlano di equità e solidarietà, mi fanno girare le palle come un elicottero. L'elicottero? Sì, elicottero. Già negli anni 70 c'erano dei compagni che avevano la fissazione per il terzo mondo e facevano sempre dei discorsi lunghi e noiosi per spiegare che tutto quello che succede qua fa impoverire il terzo mondo. E se tu provavi a comprarti una moto o qualcosa che ti piaceva, un disco, un giubbotto, quelli ti guardavano male, e ti facevano le menate per il terzo mondo. Eh sì, i pezzi della tua moto li fanno in Corea i bambini e tu li usi qui per andare in giro a inquinare e che l'inquinamento inaridisce il pianeta e che l'Africa diventa un deserto e tutte queste menate. Però poi dicevano, guarda in Cina, tutti vestiti uguali, tutti in bici, niente TV, niente vizi, tutti seri, onesti e felici. Mao Zedong! Lunga vita al presidente Mao! Presidente Mao! Presidente Mao, però alla fine sono passati 30 anni e nonostante tutti questi discorsi è successo che la Cina sta fottendo tutti grazie a che cosa? Al capitalismo. E quindi adesso sì che cominciano i guai, con la Cina che si mette a consumare esattamente come noi. E poi come la mettiamo con lo smog? Se ogni famiglia cinese compra una macchina non catalizzata? Allora non bel dirmi. Mangia biologico, consuma energia rinnovabile, fa il bravino, il civile, il maturo, l'illuminato. E poi arrivano i cinesi e fanno quel cavolo che gli pare. E in un anno rovinano gli sforzi etici, equi, solidali dei progressisti europei. I progressisti europei? I progressisti europei sono come le lucciole. Se ne vedono sempre meno ogni anno che passa. E arriverà una notte estiva in cui ci accorgeremo con un dispiacere piccolo piccolo che la specie del progressista europeo si è estinta. E Darwin si farà una grassa risata. Darwin Pastorin! Ma che Pastorin, gobbo maledetto? La fabbrica di polli. L'etica applicata alle banche, capito? Ah, ecco l'idea che stanno cercando di far passare. Se tu sei un banchiere e vedi che le cose stanno andando così così, puoi sempre ripresentarti all'improvviso dicendo: la nostra banca sostiene il mondo no profit e l'economia solidale. Noi finanziamo la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale, la tutela dell'ambiente, la società civile e la resistenza irachena. E così sei a posto, capito? Perfino quelli che sfasciano le vetrine durante le manifestazioni, i talebani dell'eticità, tutti quanti metteranno i loro soldi nella tua banca, capito? È facile. I talebani dell'eticità. Allora anche Marco Travaglio. No, ma Marco Travaglio non sfascia mica le vetrine, Drago. Lui va alla manifestazione a protestare pacatamente e già che lì fa arrestare quelli che sfasciano le vetrine. Yep, agenti, attenzione, arrestate quei delinquenti. Se poi fossi un banchiere etico non vorrei Travaglio tra i miei clienti. Scopri subito l'imbroglio e ti fa arrestare, quindi... Yep, agenti. Papà ha preso le tangenti. Capito, Drago? Banche etiche che strizzano l'occhio ai disobbedienti e cercano di farli investire in fondi che parzialmente servono a finanziare le cose in cui i disobbedienti credono. Mi sembra un modo perfetto per continuare a far soldi con una facciata da benefattore, no? Amen. Incredible facciata da benefattore. Allora ragazzi, adesso praticamente stiamo andando verso un periodo in cui, non essendoci più buone ragioni per vendere cose, perché tutti abbiamo tutto, la gente non ha più soldi, eccetera, allora cercano di farvi credere che se voi comprate la gente sta meglio. Adesso la parola d'ordine è etica, la parola d'ordine è energia pulita. In realtà non c'è più niente di pulito e non c'è più niente di etico, non esiste né l'etica né la pulizia. Non ci dovete cascare. I pannelli solari fanno bene solo a chi li vende. Che cosa ve ne fate di un pannello solare che tanto non c'è nessuno che sa come montarvelo? Voi lo comprate, lo mettete lì, c'è il pannello solare, poi vi arriva la bolletta dell'energia elettrica che consumate normalmente. Vi fanno credere, ormai il mondo è di chi vi fa credere che le cose vanno diversamente da come vanno. Questo si chiama make believe management, fate credere agli altri che le cose vanno in un modo diverso e così moriremo confusi. Capito K? Capito Drago? State in campana. Che cosa succederà adesso? Anche la fabbrica di polli ha una facciata etica? Come facciamo a saperlo restandocene chiusi dentro? Un sistema c'è. Sintonizzarsi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo equo e solidale allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. La Fabbrica di Polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.